Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, finalmente siamo insieme, vi aspettavo. Abbiamo Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e i titoli del nostro sommario. Calcoli alla cistifellea, perché si formano e come si curano. Influenza A, te la canto e gliele suono. Lenticchie, legumi generosi. Oggi parliamo di calcoli della colecisti, detta anche più familiarmente cistifellea, un sacchettino che funge da deposito della bile che è prodotta dal fegato. Nella maggior parte dei casi i calcoli si scoprono per caso e con buone probabilità il paziente a cui vengono diagnosticati non svilupperà sintomi o complicazioni nemmeno nel corso degli anni, però ahimè non tutti sono fortunati. Alcuni possono lamentare disturbi digestivi, nausea, vomito, dolore viscerale, ma c'è anche la possibilità, neanche tanto remota, che i calcoli si muovano lungo le pareti della cistifellea, dando quindi origine a quella che viene chiamata colica biliare. Di calcoli, di coliche della colecisti parliamo oggi insieme al nostro ospite per capire come vanno affrontati e gestiti e in quali casi è necessario intervenire e quali sono oggi le tecniche a disposizione. Aspetto le vostre chiamate al numero 800 24 0024 e i vostri messaggi al 349 238 6666. Allora sono pronta per dare il benvenuto, anzi il bentornato, al professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora professore, prima di parlare dei problemi, cerchiamo di capire a che cosa serve la colecisti, chiamiamola cistifellea, che è un nome a tutti più familiare. Che cosa serve? Come funziona quando funziona bene? Sì, beh, noi sappiamo che il fegato fondamentalmente ha tantissime funzioni, ma una delle funzioni principali è quella di produrre la bile. La bile, sì, viene prodotta proprio dal fegato, passa attraverso un piccolo canale che si chiama coledoco e si concentra dentro la colecisti o cistifellea, che è una piccola sacchetta posta sotto il margine inferiore del fegato. Solamente quando noi mangiamo, e cioè quando giungono generalmente i grassi all'interno dell'intestino, questa colecisti, comandata da alcuni ormoni dell'intestino, si contrae e libera la bile, che è un concentrato di bilirubina, acidi biliari e fosfolipidi. Ognuna di queste sostanze ha una funzione particolare. Professore, però abbiamo detto che in questo sacchettino a volte si possono formare dei calcoli. Molti pensano che sia colpa di una dieta troppo ricca di grassi, altri invece pensano sia un problema di fegato che produrrebbe una bile troppo ricca di colesterolo. Perché allora questi calcoli, questi sassolini? Beh, diciamo che innanzitutto ne esistono tre varianti particolari, ma le due principali sono i calcoli di colesterolo, sì, che sono circa il 70% della, diciamo, dell'incidenza della totalità dei calcoli, e altri invece sono calcoli fondamentalmente cosiddetti bruni o neri, che hanno al loro centro un nucleo di calcio, e questi calcoli sono circa il 25-30% della totalità. I calcoli normalmente dentro la bile, come vi ho detto, vi è un equilibrio molto delicato tra bilirubina, acidi biliari e fosfolipidi, tre componenti. Sì. Questi tre componenti, proprio in base a un delicato rapporto, un delicato equilibrio insieme all'acqua, sono mantenuti in sospensione, quindi la bile è assolutamente liquida. In determinate condizioni, quando c'è un eccesso di colesterolo, un eccesso di calcio, ci sono delle infezioni che in qualche modo modificano questa bile, si può formare come un sedimento, un piccolo sedimento. Su questo sedimento si forma un nucleo centrale e possono crescere questi calcoli. Quindi diciamo che sono in parte dovuti, da una parte, ad alterazioni genetiche del metabolismo proprio della bilirubina, in parte sono dovuti ad altre malattie, ma ad esempio il cirrotico spesso può fare calcoli, ma a volte possono essere anche una conseguenza, ad esempio, di una alimentazione particolarmente sbagliata, possono essere una conseguenza a volte durante la gravidanza, durante diete prolungate. Quindi diciamo possono avere una componente, ma come tutte le malattie, genetica, e una componente legata al nostro stile di vita. Lei ha citato la gravidanza, anche l'obesità è un fattore di rischio? Assolutamente sì, noi spesso che sappiamo ad esempio che l'obesità si può associare a una alterazione, diciamo, della bilancia dei grassi, del colesterolo e dei fosfolipidi circolanti. E quindi sicuramente vi sono delle condizioni in cui bisogna stare più attenti. Curiosamente, oltre all'obesità, un altro grande fattore di rischio sono le diete molto protratte. Pazienti che digiunano per periodi prolungati possono formare calcoli in quel momento. Quindi diciamo che su una predisposizione genetica si innestano dei fattori ambientali proprio legati allo stile di vita. Professore, noi abbiamo detto che i calcoli molto spesso si scoprono per caso facendo altre indagini oppure per esperienza diretta, un dolore molto forte, c'è chi lo paragona addirittura a quello del parto in presenza di una colica, ma tra queste due situazioni estreme ci sono delle situazioni intermedie, mi riferisco alla difficoltà a digerire, a una sorta di indolenzimento all'addome, la nausea, la cefalea, tutti questi sintomi possono in qualche modo farci capire, farci pensare o supporre che la cistifellea abbia qualche problemino? Ma sì, assolutamente sì, però dobbiamo stare abbastanza cauti perché dobbiamo tenere presente che solamente il 30-40% delle persone con calcoli ha le veri e propri attacchi di colica biliare o di colicistite. Molte persone invece hanno dei calcoli che rimangono, diciamo, quasi asintomatici tutta la vita. E in questo gruppo di persone che non hanno calcoli, come noi chiamiamo una colicistite complicata o forme complicate, si sviluppano tutto un insieme di sintomi che spesso non sono poi collegati a malattie della colecisti. Ci può essere un po' di difficoltà a digerire, la sensazione del cosiddetta dispepsia dopo mangiato, no? Quando uno mangia si sente pesante, sì, infastidito. Perciò diciamo che in linea di massima la calcolosi della colecisti può dare anche disturbi molto sfumati, però attenzione perché può decorrere anche asintomatica e spesso la gente si accorge di avere i calcoli facendo un'ecografia dell'addome per motivi di controllo. Allora, noi siamo pronti per ricevere le vostre telefonate, 824 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso devo darvi una notizia bellissima, perché a cantarle, a suonarle all'influenza scende in campo una banda scatenata ma intonata di ragazzini, sono gli alunni delle classi della sezione A e B della scuola secondaria di primo grado Bongetti dell'istituto comprensivo di Ome, che si trova in provincia di Brescia. Sentiamoli subito. Sono carini, devo dire che mi hanno rubato il cuore. E in linea con noi abbiamo il maestro Danilo Rabarini, che è referente del progetto. Buongiorno maestro. Buongiorno a voi, auguri. E abbiamo auguri anche a lei, auguri. Sono anche un po' famoso, però non fa niente. E anch'io, sa? E in linea con noi abbiamo anche la dottoressa Daniela Facchinetti, che è gastroenterologo del gruppo ospedaliero San Donato, che ha scritto il testo. Dottoressa, complimenti. Buongiorno dottoressa, lei e i suoi ascoltatori. Sì. Grazie per i complimenti. Eh sì, ma poi questi bambini sono davvero magnifici. Maestro, com'è nata questa idea di coinvolgere ben due classi? Ma oltretutto, vabbè, io sono un elementare, sono i miei ex alunni, sono passate le medie, ma il nostro è un istituto comprensivo, quindi viviamo negli stessi spazi, gli stessi ambienti. Sì. Sa che c'era stato un settembre-ottobre un periodo di panico seminato sul discorso dell'influenza suina, sì, e c'erano proprio anche comportamenti delle famiglie o degli stessi bambini. Un compagno con raffreddore tendeva già a essere isolato e pensavamo qualcosa per dire no, insomma, la scuola non ci possiamo permettere certe fobie. Abbiamo, certo. Essendo amico della dottoressa Facchinetti, così ha parlato più volte, è stata lei a lanciarci questa idea, ho saputo di un concorso Cosa meglio di una canzone per sdrammatizzare un po', però ovviamente con rigore scientifico, eccetera. E certo, perché il rigore scientifico c'è e il testo è stato scritto dalla dottoressa Facchinetti. Dottoressa, che bella idea, insomma, in fondo è grazie a lei che noi possiamo avere nella nostra iniziativa ben due classi di bambine che sono i più giovani. No, questo è merito del maestro Ravarini. E io ho veramente solo scritto il testo, poi di tutto si è occupato lui. E è stata la creatività dei bambini a ideare il jingle. Creatività, entusiasmo e da parte di chi li ha seguiti competenza e entusiasmo. Perché avete coinvolto anche i genitori, è stato proprio un lavoro di squadra. È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto l'insegnante di musica, ha coinvolto qualche esperto in computer per la parte tecnica, quindi ma la parte predominante, ripeto, l'hanno fatta i bambini. La ideazione del jingle è loro. Bravi, bravi questi bambini. Hanno avuto un maestro che li ha cresciuti bene. Ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. No, il nostro paese, mi scusi, è piccolino, però abbiamo per esempio un'accademia musicale con 180 iscritti. 7-8 di queste bambine, specialmente le bambine, che vedete che a trainare il gruppo sono le femmine. Vede, non volevo dirlo, ma si vede. Ecco, si vede chiaramente. Fanno una bellissima figura, se ho visto il video. Sì, però le bambine. Ecco. Adesso ragazze, perché chiamare bambine alle medie si offendono tanto. Assolutamente. Queste ragazze inventavano già durante le pause mensa testo, musica, canzoni e balletto, e poi alla fine dell'ora di mensa ce lo cantavano, lo rappresentavano così spontaneamente, cioè sono music maker proprio. Senta, quindi è diventata un po' una canzone che nelle vostre scuole si canta, è un po' vola di bocca in bocca. Anche ai bambini piccoli, a tutti, sì. Ovviamente, cioè, un po', poi adesso lo manderemo anche alle famiglie. Certo. Senta, dottoressa Facchinetti, mi sembra una cosa molto bella iniziare la prevenzione sin dall'età, ecco, ormai sono adolescenti, nella prima adolescenza. Sì, ma infatti la vostra iniziativa ha avuto il merito di pubblicizzare delle norme comportamentali che possono servire nella prevenzione delle malattie infettive virali della stagione invernale, quindi è un po' merito della vostra iniziativa. Insomma, diciamo che questa iniziativa ha ridotto un po' la paura, mettendole in musica, l'abbiamo cantata e suonata all'influenza A, e però sono regole, lei mi insegna, dottoressa, che vanno bene anche per l'influenza stagionale, per cui possiamo insegnarla anche ai nonni. Infatti chiederemo ai bambini di cantarla ai nonni. Allora, io ringrazio il maestro Danilo Ravarini, complimenti ancora. La dottoressa Facchinetti, che tra l'altro è gastroenterologo, oggi noi parliamo di calcoli della colecistica, per cui insomma veniamo nel suo campo, e io invito gli ascoltatori di Radio 24 ad andare sul sito di Radio 24, guardateveli, questi bambini sono davvero magnifici. Grazie ancora. E allora, grazie a lei, dottoressa. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Anche ai vostri ragazzi e alle ragazze. Grazie. Arrivederci. Buona giornata, grazie a voi. Pronto soccorso. A capo, ci avete fatto la guardata 1. Di che si tratta? Ma che è un incidente? Sì, è un incidente, è un traumatologico, è stata seconda a destra. No, non è un incidente, come posso dire, sta a mano del suo, si abbia caduto mettendosi come la mano qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa. Tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore. Ma che te stai a fare? Dice che mi devono operare. Ma che, insomma, ti operare di che? Ma ho sentito dire di cistofeglia, sono sotto una colica. E mo tutta sta fretta, mio zio c'ha davanti 20 anni che ha la cistifeglia. Tanto partimo che da qua stasera è già bello che è passato tutto, poi quando torni con calma, ti scegli per posto, una bella clinica. Professor Gasbarrini, da un sacco bello, si ritrova? E come no, classico problema. Classico problema. Senta, ma è così dolorosa la colica, non corriamo il rischio di non accorgercene, vero? Beh, diciamo che quando i calcoli della colecisti si complicano con la colecistite o con un calcolo incuneato dentro il coledo, che è proprio quel canaletto che dicevamo porta la bile dal fegato all'intestino, il dolore è molto forte, proprio un dolore a tipo colico, un dolore assolutamente fortissimo che ha delle fasi di possè in cui viene forte, poi va via, spesso accompagnato da febbre. Su quello non c'è dubbio che non ci sbagliamo, è molto facile fare la diagnosi, ben più difficile fare la diagnosi quando invece non c'è una colica biliare vera e propria. Insomma, la colica vi aiuta, professore? Diciamo di sì, ci aiuta. Aiuta voi medici? Aiutano i medici, c'è da dire che in quella parte dell'addome vi sono altri organi, per cui bisogna stare anche attenti a non etichettare come una colica biliare un'ulcera gastrica, una colica renale che a volte può comparire anche con dolori a quel livello, una perforazione, ci sono una pancreatite acuta, però diciamo che ci aiuta e soprattutto è facile poi fare degli esami che siano utili dal punto di vista diagnostico. Andrei a Napoli perché ci aspetta Ciro, buongiorno Ciro. Buongiorno. Volevo fare una domanda, sì, al dottore, così. Io sono stato operato per calcoli alla colecisti, in, sì, pratica me l'hanno asportata completamente. Adesso volevo sapere, una mia curiosità, io che tipo di alimentazione dovrei tenere, insomma, stile di vita, che problemi potrebbe portarmi non avendo più un organo in pratica che... Serviva, vero? Quello che ci ha dato serve, poi se ce lo tolgono uno si chiede e adesso che faccio? Professore, sì, mi dica Ciro. I dottori mi hanno detto no, il dottore mi ha operato, mi ha detto no, tu puoi avere un'alimentazione assolutamente regolare e normale, certo senza fare eccessi. Qualcun altro invece mi ha detto no, dovresti comunque tenere una dieta bassa di grassi. Senta Ciro, dica la verità, lei a quale dei due ha dato retta? Io in pratica sto facendo una via di mezzo, nel senso che sì, poi quando un po' esagero, tipo come in queste feste, poi dopo ricorro a periodi di magra proprio, insomma, nel senso di verdure e brodini. Cioè. Ecco, però adesso li rimandiamo a gennaio, no? Ecco. Penso forse proprio di sì. Ecco. Professor Gasbarrini, Ciro ci fa una domanda, insomma, se c'è serve a qualcosa, quando non c'è più quali indicazioni, quali suggerimenti devo seguire? Allora, diciamo che la colecisti, come ho detto prima, ha la principale funzione è quella di emulsionare, di permetterci di digerire, di assorbire i grassi e tutte le vitamine liposolubili. C'è da dire che anche se uno però toglie la colecisti, la bile continua a essere prodotta dal fegato, con la differenza che non è più depositata nella colecisti e viene continuamente prodotta anche a digiuno e va nel duodeno. E poi da lì, se non trova del cibo, può essere tossica. Infatti il grande problema dopo aver tolto la colecisti è che per un po' uno può avere una gastrite cosiddetta biliare, cioè la bile anche a digiuno viene prodotta e può irritare un po' le pareti dello stomaco. Diciamo che però il nostro organismo si adegua molto bene, fortunatamente, anche all'assenza di un organo e trova dei meccanismi di compenso e in genere serve un po' di tempo. Ricordate però che è anche da dire che quando uno ha dei calcoli nella colecisti o quando la colecisti è infiammata, la colecisti non funziona più bene, quindi in realtà già prima dell'intervento lui in qualche modo è in assenza di una colecisti, ha capito che funziona bene. Però diciamo che la prima cosa è probabilmente questa, innanzitutto non bisogna eliminare i grassi, perché quello che uno a volte fa, cosa fa? Ecco. Elimina completamente i grassi pensando, ma però i grassi servono, hanno delle funzioni ben precise. E invece continuare ad avere un piccolo apporto in grassi, privilegiando ovviamente l'olio d'oliva, cioè quei grassi cosiddetti sani, ha sicuramente una funzione perché è quella di fare in ogni caso produrre bile e poi far assorbire i grassi positivi. Sull'altro versante forse conviene all'inizio che ormai fare dei passi più piccoli e frequenti, perché dal momento che la bile è continuamente prodotta a digiuno, come vi ho detto, può dare un po' di tossicità. Quindi un'alimentazione adeguata, sana, anche con dei grassi sani come l'olio d'oliva, cioè i polinsaturi, e casomai fare dei passi piccoli o frequenti. Dopo un po' di tempo l'organismo si riadegua perfettamente. Riprende il passo. Assolutamente sì, assolutamente. Anche la medicina tradizionale cinese naturalmente si occupa di cistifelea e noi vogliamo capire che ruolo svolge secondo la medicina tradizionale cinese questo organo. Allora in linea con noi abbiamo il professor Minelli. Professore, buongiorno. Buongiorno. Vice direttore del centro collaborante dell'OMS per la medicina tradizionale all'Università degli Studi di Milano. Professore, che cos'è e che ruolo ha per la medicina tradizionale cinese questo piccolo sacchettino che riesce a darci anche diversi problemi? Nel suo piccolo, un ruolo sicuramente molto importante. Viene, come sempre, gli organi in medicina cinese sono organi che hanno una valenza psicosomatica, quindi è un organo che soprattutto ha una sua funzione di tipo anche psicologico, nel senso che è collegata al coraggio, è collegata alla decisione, è collegata alla possibilità, diciamo, di prendere, di fare delle scelte, cosa che poi si traduce anche a livello organico proprio nella scelta di che cosa assimilare. Prima sentivo la descrizione, diciamo, dei cibi e delle sostanze che vengono assorbite, diciamo, grazie al deflusso, diciamo, di bile, e in questo senso la colecisti è l'organo che decide che cosa verrà assorbito piuttosto che no, perché i grassi, piuttosto che le vitamine liposolubili ed altri nutrienti, senza la presenza di bile, diciamo, fanno un po' fatica ad essere digeriti. Sì, senta professore, però la medicina tradizionale cinese suggerisce anche delle regole di prevenzione per i calcoli? Ma sicuramente sì, cioè i calcoli sono interpretati come una sorta di condensazione del liquido biliare che si produce per un eccesso di fuoco, quindi andando al di là però dell'immagine, dell'allegoria, questo eccesso di fuoco si produce essenzialmente perché vi è o una componente sempre di tipo psichico o una componente di tipo somatico. Sul versante psichico sono gli eccessi emozionali legati soprattutto a collera, irritabilità, frustrazione, piuttosto che anche a problematiche legate a rimuginazione, eccessiva riflessione, dicendo, direi il 90% delle emozioni dell'uomo moderno, sì. Lo stress dell'uomo moderno. E poi vi sono problemi legati invece all'alimentazione, quindi l'eccesso di fuoco alimentare, cosa vuol dire? Vuol dire l'assunzione eccessiva di formaggi, di grassi, di fritti, di salumi, ecco, tutta un'alimentazione di questo genere favorisce, diciamo, per così dire, la presenza di calore interno che poi determina la comparsa di calcoli. Quindi la prevenzione consiste nell'avere una dieta sicuramente di tipo più fresco, sì. Frutare con maggior presenza di verdure, con una maggiore presenza di pesce tra l'altro, pesce bianco, pesce magro, diciamo, con una maggior presenza di carni bianche, con cose di questo tipo. Insomma, ecco, diciamo. Anche in questo caso medicina tradizionale cinese, la nostra medicina, sono d'accordo su questo fronte, mi sembra. In linea di massima direi di sì, perché poi se si va a vedere anche cosa si usa da un punto di vista, diciamo, anche farmacologico, i cinesi chiamano, sono molto diciamo orgogliosi della loro farmacologia, si usano sostanze che sono note anche da noi come colagoghe, coleretiche, quindi sostanze che favoriscono il deflusso biliare e che mantengono una certa fluidità della bile, come per esempio le foglie di carciofo, la curcuma, come per esempio la genziana lutea, le radici di genziana lutea, cioè tutte sostanze che anche in Occidente si sa che contengono, diciamo, principi attivi che favoriscono appunto un deflusso biliare migliore. Professor Minelli, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona grazie giornata. Grazie a voi. Essere e benessere. Professore, riprendiamo a parlare di cistifelle e di calcoli con un sms di Giorgio da Perugia. Che sono anni che ho scoperto casualmente di avere un grosso calcolo assolutamente asintomatico. Che devo fare? Deve far finta di niente o qualcosina? Ma diciamo questo, allora, un calcolo che si scopre, diciamo, casualmente, no? In assenza di disturbi, uno fa l'ecografia, vede un calcolo. Non c'è ad oggi l'indicazione assolutamente ad andare all'intervento chirurgico. Bisogna seguirlo, controllarlo nel tempo. È ovvio, diciamo che in genere è indicata un'ecografia su base annuale per vedere se aumenta le dimensioni, e poi ovviamente nel momento in cui uno lo sa deve stare un po' più attento ai sintomi. Magari può osservare un po' di più quei disturbi che dicevamo prima, come la difficoltà a digerire. A volte calcoli che quando uno produce male la bile può avere anche disturbi andare di corpo. Calcolate che la bile è un eccellente lassativo naturale, per cui disturbi sulla funzione biliare possono anche influire sul modo in cui uno va di corpo, cioè ustichezza e diarrea. Però diciamo che ad oggi è consigliata solo quella che noi chiamiamo la sorveglianza in caso di assenza di disturbi. Ci scrive Pietro da Palermo, ci chiede se i calcoli sono ereditari, perché suo padre è stato appena operato e ha paura che possa succedere anche a lui in futuro. C'è una sorta di predisposizione, professore? Sì, sì, assolutamente sì. In tutte le malattie c'è una componente genetica importante. E poi c'è da dire che spesso uno poi tende a volte a fare, a avere anche lo stile di vita dei genitori. In qualche modo, questo è vero. Può mangiare nello stesso modo, ha le stesse abitudini. E un concetto importante è che dobbiamo considerare che le malattie della colecisti, cioè i calcoli, non vengono da soli. Spesso sono associati a altri due disturbi che sono molto comuni nella popolazione, che sono i diverticoli del colon e l'ernia iatale. C'è in particolare una triade, si chiama triade di Sent, dove nella stessa persona sono presenti diverticoli del colon, calcoli della colecisti, ernia iatale. E noi tutti sappiamo che queste malattie hanno spesso una componente familiare. Spesso i figli di chi ha diverticoli li ha, e idem sui calcoli della colecisti e sull'ernia. Per cui non c'è dubbio che la componente genetica è importante e deve guidarci in una diagnosi e poi anche nelle indicazioni terapeutiche. Andiamo a Domenico, che ci chiama da Milano. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Come sta la sua cistifellea? La mia cistifellea sta male, cioè non ce l'ho più fra l'altro. Quindi si è tolto il pensiero. È tolto il pensiero 40 anni fa. Però spesso mi succede che sia per la, non dico tanto per la quantità e qualità del cibo, ma anche per il freddo, di fare delle coliche. Allora volevo chiedere al dottore, al professore, se insomma cos'è, se mi dà una spiegazione e se è possibile che si siano rifatti dei calcoli nel fegato, attorno al fegato. Grazie Domenico. Professor Gasbarrini, la cistifellea non c'è più, ma ritornano le coliche, come mai? Beh, questa è una sicuramente una serie di osservazioni interessanti. Innanzitutto teniamo presente che l'ha fatta 40 anni fa. 40 anni fa non c'erano ancora, diciamo, le metodiche laparoscopiche, quelle mini-invasive, si faceva ancora la colecistectomia facendo un taglio, no? Sì. Nella parte superiore della pancia. A volte possono essere anche delle coliche legate ad aderenze che si formano. Quindi, escluso questo problema, diciamo un problema non direttamente legato alla colecisti, si possono riformare dei calcoli. Cioè, anche se noi togliamo la colecisti, si possono riformare piccoli calcoli all'interno delle vie biliari, cioè all'interno delle vie biliari del fegato e quelle extraepatiche, cioè dove c'è il coledo con quel tubicino. Sì. E in più dobbiamo stare attenti, perché una volta, quando si toglieva la colecisti, a volte si toglieva in conseguenza di una complicanza, come la pancreatite, e a volte questi disturbi possono essere conseguenza anche di altre malattie, quindi il problema va assolutamente studiato, senza ovviamente poi focalizzarsi solo su quello, perché i motivi possono essere anche vari negli anni. Massimo ci chiama invece da Milano. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ce l'ha o non ce l'ha più? No, ce n'è ancora una come signore di prima, con un diametro, mi è stata, diciamo, riscontrata per caso circa 4 anni fa, un diametro di 2 centimetri, 2,5 centimetri. Ultimamente riscontro dei problemi di gestione, mi è stato consigliato l'intervento per asportarla, volevo capire se effettivamente era suggeribile seguire questa strada o se conveniva aspettare. Professore, quando si interviene chirurgicamente? Sì, è una bella domanda. Allora, diciamo che generalmente ora si tende a intervenire quando vi sono delle complicanze, e cioè quando si realizza una colica biliare importante, una colecistite, una complicanza come la pancreatite. Sul calcolo singolo che non dà problemi, no. C'è da dire che è importante anche la dimensione che ha detto l'ascoltatore, perché noi sappiamo che la colecisti è collegata al coledoco da un piccolo canale che si chiama dotto cistico. All'interno di questo dotto ha un diametro circa di 0,5-0,6 centimetri, per cui un calcolo di 2 centimetri non passa più attraverso il cistico e in qualche modo è un calcolo più sicuro, perché può dare colecistite ma non dà coliche colidocee, che non dà pancreatite. I disturbi che dice l'ascoltatore, cioè una difficoltà a digerire, possono essere sicuramente collegati al calcolo. Lì bisogna valutare molto bene con un chirurgo esperto e soprattutto un chirurgo ormai abile a fare colecistectomia laparoscopica, cioè la meno invasiva, vedere rischi pro e contro di un intervento. Ricordiamoci che gli interventi sono assolutamente sicuri, però come sempre hanno delle piccole controindicazioni. Abbiamo anche detto che togliere la colecisti può dare un po' di disturbi, si chiama la sindrome post-colecistectomia. Quanto dura questo disagio da post-intervento? Dura sicuramente alcuni mesi, c'è una necessità dell'organismo a riadattarsi all'assenza di una piccola sacchetta che di un significato ce l'ha, però generalmente sono piccoli disturbi molto ben controllati e con un po' di, diciamo così, di accortezze sulla dieta e sullo stile di vita non danno problemi assolutamente nel lungo termine. Allora, noi entriamo in sala operatoria e in linea con noi abbiamo il professor Sergio Alfieri, che è primo aiuto della chirurgia digestiva del Policlinico Gemelli. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. E in linea abbiamo anche il professor Gasbarrini. E siamo arrivati al punto in cui quando la presenza di calcoli passa, diventa di pertinenza chirurgica e quindi si interviene con queste metodiche laparoscopiche. Ci deve essere un'indicazione precisa. Esattamente. Professore. Allora, sì, sono in linea. Allora, sicuramente avrà già parlato il professor Gasbarrini che il solo fatto di avere dei calcoli nella colecisti non significa che devono essere operati. Sì. Una grossa porzione della popolazione ha i calcoli della colecisti, può non saperlo perché è del tutto asintomatici, non danno disturbi, quindi non devono essere operati. E però devono essere seguiti dal gastroenterologo come il professor Gasbarrini. Infatti. E cosa succede a un certo punto? Che il paziente può cominciare a avere dei dolori sotto il costato destro e con irradiazione posteriore verso la scapola destra, quella che si chiama la classica colica biliare o colica epatica. Sì. Che cosa succede? Succede che questi calcoli cominciano a dare fastidio. Cominciano a dare fastidio perché? Perché possono essere ostruire quel condotto che porta la bile dalla colecisti o cistifellea, come la vogliamo chiamare, alla via biliare, non riesce a passare la bile perché per esempio un calcolino ostruisce questo dotto cistico e si ha il dolore. Questa è una delle indicazioni, ossia quando i calcoli danno dolore. Questa è una prima indicazione. Sì, e si interviene però adesso l'intervento rispetto a quello a cielo aperto è assolutamente meno invasivo. Guardi, diciamo che negli ultimi 15 anni c'è stata veramente una svolta. Soprattutto una svolta. Tenga presente che 15 anni fa per fare una calcolosi della colecisti si faceva un taglio sottocostale, quindi sotto il costato destro, insomma, che il paziente usciva con una grossa cicatrice e doveva stare qualche giorno durante due giorni in ospedale. Adesso si interviene con una tecnica che appunto è detto laparoscopica o mini-invasiva, che sono quattro piccoli buchetti, uno nell'ombelico, uno a fianco destro e sinistro e forse un quarto alle volte sotto lo sterno. Si mette una piccola telecamera e poi si mettono degli strumenti, questa telecamera proietta nella televisione la visione interna del nostro addome e si porta via la colecisti in questi termini. Ma vi dirò di più. Pensate che da quattro buchetti oggi, non in tutti i casi, ma soprattutto in mani esperte, si riesce addirittura a fare una colecistectomia con un solo buchetto. Perché? Perché attraverso un solo buchetto, una solo piccola incisione che si fa a livello ombelicale, e quindi di calcolare l'ombelico di una cicatrice, quindi rimane nascosta, si inseriscono sia la telecamera che dei particolari strumenti di cui non mi sta a spiegare, per cui il paziente esce fuori che non ha neanche una cicatrice, perché l'unica cicatrice è quella dentro l'ombelico. Quindi sembra quasi una magia, non più il buchino, non è una magia, è frutto di anni di esperienza di studi, però dall'ombelico. Sì, di grandi progressi della tecnologia, ma io ripeto, deve essere fatto in mani esperte, perché è una tecnica questa più complessa per il chirurgo e quindi deve essere fatta con le indicazioni giuste. Professore, prima di salutarla, mi piacerebbe che lei desse una risposta a Carlo che ci scrive: perché i calcoli della cistifelea vengono operati e quindi si asporta totalmente la cistifelea e non bombardati come succede per altri calcoli? Bene, questa è una domanda diciamo molto, molto intelligente ed è molto logica. Bravo Carlo. Voi dovete pensare che i calcoli all'interno della cistifelea si formano per vari motivi, a parte ci sono vari tipi di calcoli e per motivi di tempo non siamo additi, sono quelli. Sì, ma ce li ha già detti, sai, il professor Gasbarrini. Intanto che lei operava, noi abbiamo lavorato. Sì, non ero in ascolto. Sì. Infatti, noi abbiamo lavorato, il professor Gasbarrini ci ha spiegato tutto. Benissimo. Ormai sappiamo allora quasi tutto. Allora avrete capito benissimo che se io vado a fare un intervento chirurgico e apro la colecisti e porto via i calcoli per i motivi per cui vi ha spiegato il professor Gasbarrini, per queste alterazioni biochimiche, per questi sali di calcio che precipitano, i calcoli si riformano. Quindi cosa accade? Che io devo operare un paziente, quindi lo devo addormentare, va in sala operatoria, tenete che sono dei pazienti in ottime condizioni generali, sono quelli un po' a rischio, gli faccio un intervento chirurgico, li apro la colecisti, li porto via i calcoli e dopo un anno li riforma. Ecco, no, non certo. Si fa, non si deve fare, non si è mai fatto. E non si farà mai. Prego? E non si farà mai. E non si farà mai. Mai dire mai, poi alle volte la medicina può scoprire per esempio una pilloletta che poi non te le fa più riformare, quindi mai dire mai in medicina, però diciamo ad oggi. Si porta via la colecisti, tenete presente che il paziente entra la mattina, il pomeriggio viene operato e al massimo il giorno dopo se lo fa con tecnica laparoscopica va a casa, insomma, senza nessun problema e non dà nessuna alterazione per quanto riguarda quella digestione, nel modo più assoluto. Ci vuole però, come diceva il professor Gasbarrini, un po' di tempo dopo l'operazione per riprendere il passo. No, professor Gasbarrini, ho capito bene? Professore? Assolutamente sì, proprio un po' di tempo. E benvenuto a Luigi che ci chiama dalla provincia di Lucca. Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi, siete fantastici. Oh, grazie Luigi. Io dalle domande e dalle risposte che ho sentito credo di avere esaurito i miei interrogativi. Comunque, visto che vuol dire che sono stati chiari sia il professor Gasbarrini che il professor Alfieri, bravi, una chiarezza incredibile. Però approfitto dell'occasione per fare una domanda. Io ho due calcoli biliari che per il momento non mi danno fastidio, credo che siano all'incirca un centimetro cada uno. E, l'unica cosa che ho fatto, a parte la dieta che penso di seguire abbastanza fedelmente, insomma, io il mio organismo lo conosco abbastanza bene, per cui so quello che mi fa bene e quello che mi fa male. Quello che ho preso io di recente, ho preso delle compresse di Deurzil, 400 mg mi pare. Posso, siccome le ho smesse perché qualcuno mi ha detto che non fanno assolutamente niente, posso continuare a prenderle oppure devo smetterle? È perfettamente inutile che le prenda? Professor Gasbarrini, chi ha i calcoli deve prendere qualche farmaco, e questo in particolare a cui si riferisce Luigi? Questa è una domanda di enorme interesse, perché se è vero che noi sicuramente abbiamo la chirurgia, se è vero che dobbiamo avere una dieta, diciamo, regolare, non dobbiamo fare stravizi, esistono dei farmaci. I farmaci sono alcuni acidi biliari, in particolare acidi biliari protettivi come l'acido ursodeossicolico, quello che è contenuto nel farmaco che prima l'ascoltatore ci ha detto. Questi farmaci ad oggi hanno un'indicazione nei calcoli di colesterolo, e soprattutto i calcoli di colesterolo di piccole dimensioni. Hanno soprattutto la funzione di, in qualche modo, possono sciogliere la membrana esterna e possono evitare che questa aumenti di dimensioni. C'è da dire che l'efficacia non è al 100%, possono però avere un ruolo e sicuramente in alcuni calcoli hanno un senso. In altri calcoli, cioè i calcoli quelli bruni, dove c'è il calcio, quelli bruni, non hanno nessun significato particolare, per cui non sono indicati. Ma dall'ecografia, mi scusi professore, voi capite se sono di colesterolo bruni? No, l'ecografia non va bene. Quello che serve generalmente è accompagnare, almeno la prima volta, l'ecografia è una lastra dell'addome, perché i calcoli scuri, cioè quelli di calcio, lasciano un'immagine, quelli chiari non mostrano niente all'ecografia, sono radiotrasparenti. Questo può essere un trucchetto che deve essere sempre fatto all'inizio per sapere di cosa sono composti i calcoli. Certo. Paolo ci chiama dalla provincia di Frosinone. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei e al professore. Grazie. Dunque, io in parte ho già avuto la risposta, perché volevo chiedere questo. Siccome io ho alcuni calcoli alla colicista, volevo sapere se c'erano delle alternative all'operazione. Professore, perché lei eviterebbe. Allora io proprio la mando nella tana del lupo. Professor Alfieri, e Paolo... Ecco, Paolo ha un po' paura del chirurgo, d'altronde chi non ne ha, no? Si preferisce... Anche mia figlia Virginia c'ha paura del papà chirurgo, quindi che poi non si fa toccare, capito? Senta, e allora che cosa può dire? Beh, in parte adesso detto che l'intervento è meno invasivo, eccetera, però... Tenete presente che l'intervento meno invasivo non significa che non sia un intervento, l'intervento chirurgico è lo stesso, per cui le indicazioni devono essere precise. E le indicazioni le dà il chirurgo insieme al gastroenterologo, io lo do al professor Gasbarrini. E se c'è l'indicazione, che non è solo la colica, può essere stato per esempio una pancreatite, che è una complicanza molto grave da calcolo da colicisti, la migrazione di calcoli nella via biliare, che prima dell'intervento devono essere asportati per via endoscopica, se c'è un'indicazione bisogna fare l'intervento chirurgico, soprattutto se sono le coliche ripetute. È chiaro che se abbiamo un paziente ad alto rischio, il gastroenterologo, come il professor Gasbarrini, tenterà tutti i farmaci per evitarlo. Per evitare, per vedere se si può procrastinare o evitare o mettere in migliori condizioni il paziente per operarli. Però l'intervento di colicistectomia, lì dove ci sono le indicazioni, è l'unico atto terapeutico per guarire. Insomma, bisogna prendere nel caso il coraggio a quattro mani e affidarsi. Sì, perché se uno poi non si opera ed è sintomatico, poi possono venire problemi molto più seri, come ho detto prima, ci può essere un'infiammazione importante della colicisti, con febbre alta, gli ascessi, la pancreatite, che può essere anche molto grave. Quindi, diciamo, chi ha i calcoli della colicisti non si deve operare, ma se uno ha i calcoli della colicisti sintomatici, assolutamente, che non rispondono alla terapia, si deve operare. Professore, la lasciamo alla sala operatoria. Intanto grazie e tanti auguri. Saluti Virginia, La salutiamo Virginia. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Grazie a lei. Professor Gasbarrini, le rubo ancora qualche minuto per parlare di pancreatite. L'abbiamo nominata più volte parlando di calcoli e di cistifellea. Che succede? Una è una patologia assolutamente molto grave. Voi dovete sapere che il pancreas è un organo cruciale perché secerne tutta una serie di enzimi che sono cruciali per la digestione, però sono enzimi così potenti che devono, per farvi capire, digerire i farinaci, digerire la carne, per cui devono essere veramente potenti. Se questi enzimi cominciano a funzionare contro il pancreas, lo possono distruggere, disintegrare. E quali sono le condizioni che possono attivare questi enzimi all'interno del pancreas? Quando dei piccoli calcoli dalla colecisti vanno di fronte allo sbocco del dotto pancreatico, che va a incrociare proprio col dotto coledio, con quello che porta via la bile. Per questo motivo una frequente complicanza dei calcoli nel coledoco è la pancreatite. Calcolate che circa il 50-70% delle pancreatiti sono dovute a calcoli, per cui molto attenti a non togliere i calcoli quando cominciano a dare disturbi, perché possono evitare una pancreatite. La pancreatite è una malattia che va anche qui da uno spettro di sintomaticità scarsa a una condizione assolutamente mortale. La pancreatite inoltre, dopo che si è realizzata, può avere degli esiti, la cosiddetta insufficienza pancreatica, e quindi le persone poi per tutta la vita hanno problemi digestivi. Per cui il vero rischio per me della dei calcoli della colecisti, oltre alla colecistite, cioè all'infiammazione, è il rischio di pancreatite. Se viene una pancreatite come conseguenza di calcoli, la colecisti va subito tolta, perché la seconda può essere molto più grave e pericolosa della prima, e pericolosa anche per la vita della persona. Professor Gasbarrini, la ringrazio per essere stato con noi, le faccio gli auguri, ormai siamo quasi alla fine dell'anno. Assolutamente, e per Natale e per l'anno nuovo. E per Natale e per l'anno nuovo. Grazie e a prestissimo, tanti auguri. Bene. Arrivederci Nicoletta, arrivederci a tutti, auguri. E prima di salutarci parliamo di lenticchie, legumi generosi dal punto di vista nutrizionale, secondo tradizione bene auguranti. Più se ne mangia e più si guadagna durante l'anno. Secondo il parere di molti esperti sarebbe proprio la somiglianza delle lenticchie con le monete, in questo caso piccole monete, a dettare quest'usanza che sappiamo si è protratta nel tempo per moltissimi anni fino ai giorni nostri. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, che è specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, che sono certa ci darà alcuni buoni motivi per invitare le lenticchie più spesso sulla nostra tavola, non solo a Capodanno con il cotechino. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e auguri a tutti. Auguri. Allora, mangiare le mangiamo, perché sarà vero o no, ma comunque, no? Se sono ben auguranti e portano soldi, tanto sì, vale. Dai, abbiamo delle storie bellissime, poi sappiamo la cosa bella è che in realtà sono presenti nella storia, si recuperano fin da 6.000 anni fa, quindi se un cibo resiste per 6.000 anni avrà i suoi motivi. Bravo, bravo, poi sono buonissime. Non solo, io direi una cosa che è, secondo me, importantissima, ed è che hanno un correttissimo bilanciamento, cioè un buon bilanciamento di carboidrati e proteine dentro, nel senso che, non quelle secche, perché la gente a volte mi dice, ah, ma io mangio quelle secche, c'hanno dentro il 30% di proteine. No, la gente non mangia quelle secche, mangia ovviamente quelle reidratate, bollite, preparate, quindi ci sono comunque dentro un buon 7% di proteine, che rendono il piatto di carboidrati che sono comunque presenti dentro nelle lenticchie ben bilanciati, abbastanza ben bilanciati, ma ad esempio per non essere così ingrassanti come ad esempio un piatto di riso, ecco. Per cui già questo, in periodo natalizio dove tutti hanno qualche chilo in più da smaltire, il fatto di poter mangiare le lenticchie e sapere che bilanciate magari con un po' di proteine aggiuntive diventano veramente una modalità alimentare corretta. Io ti racconto come ad esempio piace mangiarle a me. Sì. Io le tengo abbastanza indietro di cottura, quindi sono al dente, come dire, quindi questo tra l'altro meno, con un indice glicemico più basso, e ci aggiungo delle proteine. Allora, o facendo la ricetta classica, per cui ci metti dentro un pezzettino di pancetta, dei pezzettini di carne eventualmente preparati e andati preparati precedentemente, oppure a me piacciono molto con dei gamberetti aggiuntivi. È vero, sono buonissime. Anch'io faccio lenticchie e gamberi. Vedi che sono splendide. Tra l'altro, a quel punto le lenticchie con i gamberi, con un po' di gamberi aggiuntivi, diventano anche un ottimo condimento per una pasta integrale. Perché il problema grosso quando si ingrassa è quello di mangiare un eccesso di carboidrati. Noi abbiamo già nelle lenticchie un quantitativo buono di proteine salutari, perché sono veramente salutari. Aggiungiamo un po' di proteine animali, se vogliamo usare i gamberetti piuttosto che altro, o piuttosto che non vegetali, con un po' di formaggio aggiunto in qualche modo, ed ecco che abbiamo un piatto spettacolare che, se si aggiunge la pasta integrale, che è una ricchezza enorme, con dentro già il 12-13% di proteine spontaneamente, abbiamo un piatto sano, positivo, che riempie, che dà gusto ed è piacevole. Tra l'altro poi adesso sentivo, avete appena parlato di calcoli alla colecisti, no? Sì. È ovvio che se uno si mette in bocca un cucchiaione di maionese pura, la colecisti fa una specie di struzzamento terribile e fa male. La lenticchia è un ottimo piatto, per cui può essere mangiato perché ha un buon contenuto di fibra, quindi facilita l'eliminazione intestinale, è bilanciata tra carboidrati e proteine, può essere condita con un po' di olio in maniera adeguata, che non diventa tanto davvero per la colecisti, quindi consente anche per persone che abbiano calcolosi o problemi di tipo biliare un'ottima azione di stimolo digestivo. Poi peraltro ricordiamoci che ha questo valore veramente, io devo dirti una mia particolarità, questa me l'ha insegnata mia figlia, non so dove l'ha recuperata da qualche parte, ma le mangio un po' con le mani, perché è detto che la tradizione, insomma, per rendere viva questa cosa devono essere portate alla bocca un po' come fanno i cinesi quando mangiano il riso. E quindi bisogna mangiarne un po' con le mani? Un po' con le mani, questo è un buon segno. Proveremo anche questa. Bisogna provare anche questa. E noi domani insieme a lei, dottore, parleremo anche di uve e di melograno, che la tradizione vuole si devono essere mangiati proprio a fine anno, tutte quelle, no, i chicchi del melograno, i chicchi, gli acini d'uva, portano anche lì benessere. Quindi... Altro mi stai toccando altri due prodotti che hanno dentro una ricchezza infinita di prodotti utili per la salute. Siccome quest'anno è un anno in cui dobbiamo anche mettere la salute al centro del nostro benessere, direi che partiamo bene, chiudiamo l'anno dando delle indicazioni sicuramente positive per tutti. Dai. Allora, noi ci risentiamo domani. Melograno e uva, le do il compito, dottore. Bene, obbedisco. Va bene. E noi ci sentiamo domani, dopo il GR delle 11. Domani parleremo di invidia, preparatevi. Radio 24. La passione si sente.